Storie italiane. Il barbiere sciocco. Questa è la storia di una città chiamata Pataliputra. C'era una volta un mercante chiamato Manibhadra e sua moglie Gayatri. Erano molto ricchi, avevano molta terra e vivevano in una villa. Manibhadra era un uomo gentile. Mai si era sentito orgoglioso della sua ricchezza. Aveva lavorato molto duramente nella sua vita. Anche sua moglie Gayatri era una donna molto saggia. Non aveva mai permesso a nessuno di lasciare la sua casa a mani vuote. Manibhadra e Gayatri erano molto conosciuti nella loro città. Invitavano spesso ospiti a casa loro, sempre trattandoli con rispetto e gentilezza. C'era sempre almeno un ospite nella loro villa. La coppia era molto ospitale e offrivano sempre regali costosi e diversi tipi di cibo. Vedi, Gayatri, abbiamo tanti buoni amici. Non saremo mai affamati o senza tetto finché queste persone simpatiche saranno con noi. Non ci lasceranno mai soli. Oh, caro, sei troppo buono. Dai regali a tutti senza aspettarti niente in cambio. Ma queste persone vengono solo perché le trattiamo bene. Nessuno di loro ci sosterrà se finiremo nei guai. È insensato. Non pensare in questo modo. Sono la nostra gente. So che non mi ascolterai e spero che non arrivi mai il momento che tu debba darmi ragione. Ma la paura di Gayatri presto si sarebbe avverata. La sorte aveva altri piani per la coppia di mercanti. Un'estate, Manibhadra apprese che tutte le sue navi erano disperse. Aveva perso tutto il suo carico. Cercarono e cercarono le navi, ma non servì a niente. Manibhadra ora doveva pagare un sacco di soldi ai suoi clienti. Provò così a chiedere aiuto ai suoi amici, ma avevano tutti una scusa per mandarlo via. Cos'è successo, caro? Hai trovato qualcuno che ci aiuti? No, tutti sembrano avere i loro problemi. Loro non possono aiutarci per adesso. Gayatri sapeva che i suoi amici stavano solo inventando delle scuse, ma sapeva anche che suo marito non ci avrebbe creduto. Così preferì tacere. Il commerciante dovette quindi vendere tutte le sue terre per coprire le perdite, ma era ancora a corto di soldi. Vendette allora la loro villa. Questo risolse la situazione. Manibhadra aveva pagato tutti i suoi debiti, ma ora era un uomo povero. Vivevano in una piccola casa e lavorava la terra di qualcun altro per guadagnare denaro. Anche Gayatri aveva trovato un lavoro come maestra per aiutare con le spese di casa. Entrambi dovevano lavorare molto duramente, ma nonostante tutti i problemi, Manibhadra e Gayatri erano ancora gentili e rispettosi verso gli altri. Guadagnavano abbastanza per poter sfamare almeno un ospite al giorno. Non avevano regali costosi o diversi tipi di cibo da offrire, ma avevano la loro ospitalità e la loro gentilezza. Il tempo passava, ma nessuno dei vecchi amici andava a trovarli. Le persone che Manibhadra considerava amici ora lo guardavano senza fermarsi e senza sorridere. Manibhadra era depresso. Ah, avevi ragione, Gayatri. Quelli non erano nostri amici. Venivano da noi solo per godersi i regali costosi e la nostra ospitalità. Se solo ti avessi ascoltato. Mi dispiace, Gayatri. Non mi rimane più nulla. Non posso più darti una bella vita. Non dirlo, caro. Sono felice di essere con te. Solo perché gli altri non ci aiutano nei momenti difficili non significa che dobbiamo cambiare chi siamo. Sei un uomo di principi. La tua onestà sarà un giorno ricompensata. Ma Manibhadra era troppo triste per credere a Gayatri. Lo dice solo perché mi ama. Sono stato uno sciocco per tutta la vita. La mia stupidità non sarà mai ricompensata. Non ho più nulla da offrire alla mia famiglia. Come potrò ora guardarmi in faccia? È tutta colpa mia. Non è meglio morire che vivere con questa colpa per sempre? Continuando ad incolparsi, il mercante si addormentò. Mani, svegliati, Mani! Eh? Che cosa sta succedendo? Tu chi sei? Sono un monaco, sono venuto qui per aiutarti. Non devi perdere il cuore di fronte ai problemi, devi affrontarli. Sono solo uno sciocco, non posso affrontare quello che ho fatto. Non sei sciocco. Sciocco è colui che agisce senza comprendere tutta la verità. Quello che ti è successo è stato solo uno sfortunato incidente, ed io sono qui per aiutarti. Che cosa? Come mi aiuterai? E perché dovresti farlo? Tua moglie ha ragione. È grazie alla tua onestà e agli anni di duro lavoro che sono comparso. Questa è la tua ricompensa. Adesso ascoltami. Domani busserò alla tua porta con questo identico corpo. Tocca il retro della mia testa con un bastone. Quindi mi trasformerò in una grande pentola d'oro. Tutta la tua fortuna tornerà presto. Ricorda, non colpire nessun altro monaco o verrai punito. Oh, che strano sogno. Devo essermi addormentato pensando ai soldi. Quando il mercante uscì di casa, vide un altro monaco che passava vicino alla sua casa. Potrebbe essere lui? Oh no, il monaco aveva detto che apparirà con lo stesso corpo. Sogno o no, non devo colpire nessuno senza pensarci. Mentre Manibhadra si stava sedendo sul divano, sentì qualcuno bussare alla porta. Oh, chi è? È il monaco? No, no, Sahib. Sono io, il barbiere. Mi aveva chiesto di venire. Oh, sì, certo, accomodati. Mentre Manibhadra si stava sedendo per farsi tagliare i capelli, bussarono nuovamente alla porta. Caro, c'è un monaco alla porta. Cosa dovrei dargli? Un monaco? Vai a prendermi un bastone, presto! Un bastone? Non ho tempo di spiegarti. Presto, prendilo! Senza lasciare che il barbiere finisse di tagliargli i capelli, Manibhadra corse dal monaco con il bastone. Il monaco era già entrato in casa. Manibhadra gli toccò la nuca con il bastone e improvvisamente... Oh! Cos'è questo? Quanto oro! Sì! Non siamo più poveri! Il mercante era così felice che si dimenticò completamente del barbiere che era ancora in casa e osservava tutto. Oh, quindi questo è il modo in cui il mercante si è arricchito? Beh, questo non è per nulla difficile. Il giorno dopo, il barbiere pensò ad un piano. Andò nel luogo di ritrovo dei monaci e li invitò a casa. I monaci erano titubanti, ma avevano pietà del barbiere che li implorava di andare. Così seguirono il barbiere a casa sua. Non appena entrarono in casa, il barbiere chiuse le porte e cominciò a colpirli con un bastone. Che stai facendo? Oh, aiuto! Questo è un pazzo! Scappiamo, ci ucciderà! Uno dei monaci riuscì in qualche modo a scappare e a chiedere aiuto alla gente per gli altri monaci. Tutti insieme aprirono la porta della casa e salvarono i monaci. Il barbiere era spaventato. Tutti erano arrabbiati per quello che aveva fatto. Lo rincorsero per colpirlo. Il barbiere fu cacciato via dalla città per sempre. Manibhadra e Gayatri avevano visto tutto. Il monaco aveva ragione. Sciocco è colui che agisce senza comprendere tutta la verità. Lo sciocco barbiere sapeva solo che ha toccato un monaco con un bastone e che questo si è trasformato in oro, ma lui non sapeva del mio sogno. Ha agito senza pensare ed è stato punito per aver colpito i monaci sbagliati.